respiro. Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo. Buongiorno e bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli. Quella che avete appena sentito è la canzone Il Gigante ed è la traccia su cui ci muoveremo, o che comunque vorremmo fosse in qualche modo un sottotesto di questa puntata di Respiro, vale a dire un abbraccio di uomini per salvare questo pianeta. E dunque vi faremo sentire nel corso di questa puntata le storie di persone che nel loro vivere quotidiano hanno adottato delle strategie di risparmio energetico. Sentiremo famiglie del nord, del centro, del sud che a modo loro, nel loro piccolo, con gli strumenti a loro disposizione, hanno fatto in modo che la loro presenza su questo pianeta diventasse meno pesante dal punto di vista ambientale. Ve ne avevamo già dato notizia circa 6 mesi fa, quando decidemmo di seguire da vicino alcune famiglie che avevano aderito alla campagna Risparmia le Energie, un'iniziativa promossa dalla COP e che in questi giorni ha raggiunto la sua fase conclusiva. Prima di darvi l'esito dell'esperimento, dobbiamo segnalare il fatto che a sovraintendere la campagna c'era un comitato scientifico che è stato convocato anche per valutare i comportamenti delle famiglie ed è formato da rappresentanti delle più importanti associazioni ambientaliste, vale a dire WWF, Greenpeace, Lega Ambiente, poi un membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti e un rappresentante del Ministero dell'Ambiente. Dunque, ora invece vediamo come è andata. E allora, un anno di risparmio energetico per 2500 famiglie in tutta Italia ha dato una fotografia sicuramente incoraggiante, perché sono cresciuti i consumatori attenti, erano l'89% a inizio dell'anno scorso e ora sono saliti al 97%. Sono diminuiti gli spreconi, erano il 10%, sono scesi al 2%, quindi una dimensione veramente minima. Le famiglie hanno migliorato complessivamente i propri comportamenti, il 94% è attento agli sprechi energetici, il 47% afferma di aver ridotto l'uso dell'auto a favore dei mezzi pubblici, il 50% ha detto no all'acqua minerale a favore dell'acqua di rubinetto e poi c'è un 10% che ha realizzato un sistema per raccogliere l'acqua piovana e riutilizzarla. Questo dunque il quadro generale. Nel dettaglio invece vediamo come sono cambiate le abitudini, gli acquisti delle famiglie. Sul fronte del riscaldamento, il 70% non ha apportato migliorie alle isolamento termico della propria casa, ma ha dimostrato invece una grande attenzione per il risparmio energetico riguardante gli elettrodomestici. Dunque l'85% dice di avere tutti gli elettrodomestici in classe A o addirittura superiore e il 94% afferma di stare molto attento all'eliminazione degli stand-by e anche degli sprechi, dei piccoli sprechi in generale. Nel campo della mobilità, le famiglie, queste 2500 famiglie, nel 47% dei casi hanno ridotto l'uso dell'auto a favore dei mezzi pubblici, hanno utilizzato la bicicletta e hanno anche camminato, ma l'86% del campione ha dichiarato comunque in ogni caso di non essere riuscito a eliminare l'automobile dalla gestione, diciamo, quotidiana della famiglia. Nel campo dei rifiuti poi la stragrande maggioranza, quindi il 97%, effettua la raccolta differenziata, ma la percentuale scende all'88% alla domanda se si fa attenzione durante gli acquisti ai prodotti con pochi imballaggi sfusi. E dunque questa è la situazione, diciamo, per grossi capi. Poi noi siamo andati ad ascoltare le singole famiglie che hanno aderito a questa campagna per farci proprio raccontare come hanno vissuto quest'anno e se in qualche modo quest'anno vissuto in questo modo ha inciso e inciderà nella loro gestione familiare e nella loro vita futura. Allora, la prima testimonianza è la storia di Nino Carota. Il signor Carota vive a Francavilla al Mare, è papà di tre bambini e ci ha raccontato proprio che quest'anno di risparmio energetico ha influenzato moltissimo anche le abitudini dei piccolini che vivono insieme a lui. Sentiamo. Come abbiamo sentito questa iniziativa di risparmio energia, abbiamo visto un pochino che erano promosse da alcune organizzazioni come Lega Ambiente e come Coop, e quindi diciamo, conoscendo già a monte questi due marchi, un pochino ci siamo affidati. In realtà ci ha fatto molto comodo perché per noi diciamo, questo progetto costituito diciamo una sorta di consulenza, mi passi un po' l'azzardo, di consulenza gratuita sul piano energetico, cioè nel senso diciamo, noi già mettavamo in piedi qualche cosa, però ecco, metterlo in piedi e poi essere seguiti e anche sottoposti diciamo a una verifica in qualche modo, seppur diciamo su base volontaria, però è qualcosa di diverso, nel senso che magari ci può essere una correzione, ci può essere una correzione del tiro e così via. Ecco, che cosa avete corretto, come dice lei, nel corso di quest'anno? Su cosa eravate veramente spreconi? Allora, intanto diciamo credevamo di essere quasi tra virgolette virtuosi, e questo è una, invece aver scoperto che in realtà erano diciamo diversi i rivoli in cui si perdevano, c'erano delle inefficienze, diciamo è stata diciamo la prima sorpresa, ma anche il primo guadagno, ecco, in qualche modo. E diciamo di primo acchito ci siamo accorti un pochino che qualcosa non era coerente con le idee, perché quando abbiamo risposto al primo questionario di monitoraggio della situazione, non che fosse particolarmente complicato, però era davvero molto lungo e dettagliato, in realtà ad un certo punto abbiamo dovuto sospendere perché non avevamo le informazioni, cioè molti aspetti anche di casa nostra, delle nostre abitudini un pochino ci scivolavano via. Per esempio anche il numero totale di punti di illuminazione, di lampadine, le classi energetiche di tutti gli elettrodomestici, ecco, lì c'è stato diciamo un attimino una sorpresa. E poi in realtà dove eravamo proprio un vero disastro è stato proprio sul risparmio idrico, perché poi siamo passati da un'autovettura diesel Euro 2 diciamo a un'autovettura a metano Euro 4 con la riduzione anche della motorizzazione. Ecco, quindi, e poi diciamo stiamo un attimino, come dire, scegliendo un po' di più, anche se molto spesso si fa fatica, sia il mezzo pubblico sia i mezzi alternativi. Voi come nucleo familiare come siete? Quante persone fanno parte? Sì, siamo io e mia moglie e poi i tre bambini, 8 anni, 5 anni e 3 anni. Ecco, come avete lavorato sui bambini? Beh, su questo, vabbè, intanto spiegando, cercando di democratizzare un pochino anche queste scelte, di spiegarlo, di essere molto disponibili, ma anche allo stesso tempo di non essere eccessivamente duri o severi, cioè nel senso, e poi sicuramente con l'esempio, cioè il nostro esempio, cioè anche quando laviamo i denti, questa è la solita, diciamo il solito comportamento che viene sempre ripetuto, però effettivamente è significativo, cioè vedere che effettivamente è un istante il rubinetto aperto per lavarsi i denti, chiaramente per loro non significa che devono impiegare proprio lo stesso istante, però ecco, già hanno un esempio, un confronto, un modello diciamo a cui ispirarsi, un modello immagino comunque positivo, e sicuramente con l'esempio e poi spiegandolo. Ecco. E devo essere sincero, le prime due bambine, un po' forse anche perché sono già più adulte con l'età, la scuola, prima la scuola materna, poi la prima con la scuola elementare, già sono diciamo abbastanza sensibilizzate. La risposta è stata diciamo molto spontanea, anche molto, come dire, interessante. Appassionata. Vabbè, il piccolino, sì. Il piccolino invece, vabbè, è il libero battitore della situazione. Va bene, però bisogna cominciare da piccoli, no? Sì. No, l'esempio vale pure per lui, però diciamo che non siamo proprio così severe, insomma, voglio dire. Per esempio anche questo fatto di spegnere le luci come si esce da un ambiente, già è, diciamo, un altro aspetto importante. Questo, per esempio, il piccolino non lo faceva mai, adesso già inizia, vede comunque molto le sorelle. Cioè, una cosa che vedo è che mentre la prima, ma anche la seconda, diciamo la prima in particolare guarda molto noi genitori, la seconda si rifà molto sulla prima e il terzo, il maschietto, si rifà tantissimo alla seconda, cioè quasi una cosa a cascata. Quindi effettivamente se semini bene all'inizio, cioè comunque poi lasci uno strascico positivo, ecco, questo stiamo vedendo. Senta, voi avete fatto in quest'anno attenzione durante gli acquisti agli imballaggi? Avete comprato cose con meno plastica, meno carta? Avete fatto sì, questo genere? Questo sì. È andata, diciamo, intanto è stata una sorpresa, perché questo in realtà non l'avevo mai fatto, anzi, molto spesso i nostri acquisti erano proprio condizionati dal packaging o dall'imballaggio, cioè perché quasi che abbia un'importanza maggiore l'aspetto, diciamo, esteriore, non che il contenuto non avesse importanza, però molto spesso vengono venduti insieme. E invece abbiamo avuto un po' più di attenzione sui marchi ecolabel o la riduzione. Da noi, per esempio, come supermercato non è ancora attivo il servizio di, diciamo, di acquistare il detersivo portandosi il contenitore. Prodotti sfusi. Però ecco, diciamo, è una buona iniziativa, per esempio anche portandosi la sportina quando si va a fare la spesa, abbiamo quella proprio in tela. L'abbiamo fatto l'acquisto una volta e ce la portiamo. E questa era una delle chiacchierate che abbiamo fatto in questi giorni con una delle persone che, come vi dicevo, hanno aderito per un anno alla campagna Risparmia le energie di Coop. Risparmiare le energie è ovviamente una cosa fattibile, tra l'altro che tutti potremmo praticare. Adesso ci fermiamo per qualche istante, ma vi facciamo sentire nella seconda parte di Respiro innanzitutto alcuni consigli pratici proprio per iniziare anche noi a ridurre l'impatto energetico all'interno delle nostre case, e poi vi facciamo sentire un'altra testimonianza, questa volta una storia completamente diversa, una famiglia di trentenni, sono lui e lei, quindi senza figli, trentenni, liberi professionisti, milanesi. Respiro. Bentornati a Respiro, e allora stiamo parlando di risparmio energetico, continueremo a farlo anche in questa seconda parte dando voce ai protagonisti di Risparmio alle energie di Coop. Prima, come vi dicevo, abbiamo raccolto alcuni consigli pratici. Abbassa il riscaldamento. Riducendo la temperatura di appena un grado centigrado, in un anno si risparmia tra il 5 e il 10% della bolletta energetica e si evitano 300 kg di emissioni di CO2. Programma il termostato. Temperatura bassa quando siete fuori e di notte, più alta al mattino e nelle ore in cui state in casa. Così facendo, la bolletta si può ridurre del 7-15%. Metti i doppi vetri. Cambiare le finestre costa, ma sul lungo termine è un investimento che paga. Si evita fino al 70% della dispersione di energia. Sposta frigo e freezer. Se sono vicino al forno, consumano molta più energia. È stato fatto un esperimento. Frigo e freezer sono stati messi in una stanza a 30-35 gradi centigradi. L'energia necessaria per raffreddare è praticamente raddoppiata, causando in un anno 160 kg di emissioni di CO2 extra per il frigo e 320 per il freezer. Elettrodomestici di classe A+. Se vi serve un frigo, una lavatrice o una lavastoviglie nuovi, sceglietelo di classe A+, significa che è molto efficiente. Occhio alla temperatura. Tenendo il frigo alla temperatura più bassa, non solo si consuma più energia, ma si rischia anche che il cibo venga rovinato perché è semicongelato. Non mettere cibi caldi in frigo. Lasciando raffreddare fuori, si risparmia energia. Acqua non troppo calda. Il termostato per l'acqua non dovrebbe superare i 60 gradi centigradi. Stessa cosa per il boiler del riscaldamento centrale. Ricorda, il 70% dell'energia usata dalle famiglie europee è per il riscaldamento delle case e circa il 14% per avere l'acqua calda. Risparmia le energie, la campagna di COP che ha coinvolto 2.500 famiglie è andata un po' a toccare dimensioni differenti. Abbiamo visto nella prima parte una famiglia composta da 5 persone, 3 bambini e 2 adulti, e questa volta invece vi facciamo sentire la storia di Ilaria Griffini, che vive a Milano con il marito, sono 2 trentenni, quindi tutta un'altra storia rispetto alla famiglia che vi abbiamo fatto sentire nella prima parte. Vediamo allora come si sono mossi questi 2 trentenni milanesi. La prima domanda è: dopo un anno, le somme come le tira? Come è andato quest'anno? Ma è andato bene, perché comunque ci siamo impegnati, ci siamo messi in discussione, cercare di migliorare quelle che sono le nostre abitudini, ecco, di vita quotidiana, cercando di comunque focalizzare meglio l'attenzione su quello che è il risparmio energetico. Quindi è stata un'esperienza sicuramente positiva, ecco. Ecco, su che cosa voi eravate spreconi? Ma forse sull'utilizzo, ecco, dell'automobile, nel senso che dovendoci spostare per andare sul luogo di lavoro, a volte magari si facevano dei viaggi doppi, nel senso che in due magari si utilizzava ciascuno la propria macchina, ecco. Poi invece comunque si è riusciti a organizzarsi in modo tale da ridurre, ecco, gli spostamenti con l'automobile, ecco, forse l'aspetto sul quale siamo migliorati, perché per il resto già avevamo fatto tante cose proprio per limitare quello che è lo spreco energetico, ecco. La sua è una famiglia composta da 2 persone? Esatto. Ecco, voi siete, diciamo, quanti anni avete più o meno, ecco, senza entrare nello specifico? Guardi, giusto per avere un quadro. Io ne ho 30 e mio marito 32. Quindi rappresentate proprio quella classe media di età giovane che in qualche modo ha fatto tutta una sorta di passaggi nel tempo fino ad arrivare ad oggi a una consapevolezza di fondo, no? Sull'ambiente, certo. Sull'impatto. Sì. Diciamo che voi siete arrivati a questa iniziativa già pronti. Sì, perché comunque già prima eravamo interessati all'argomento, ecco, per cui anche quando ci siamo sposati, che abbiamo preso casa, comunque la scelta ad esempio degli elettrodomestici è stata fatta anche sul risparmio energetico, quindi la scelta di elettrodomestici in classe A piuttosto che A+, piuttosto che l'utilizzo di lampadine a risparmio, o anche i riduttori del flusso dell'acqua dei rubinetti, piuttosto che in giardino abbiamo messo i lampioncini, quelli con le piastre fotovoltaiche. Tutte queste cose comunque già le avevamo, diciamo, come patrimonio nostro, per cui le abbiamo applicato poi nella nostra casa, ecco. Senta, se oggi si conclude, diciamo, mettiamo così, questa iniziativa, voi continuerete ad avere questi atteggiamenti virtuosi? Cioè, quello che cerchiamo di capire è anche se con, certo, un'esperienza del genere poi resta il segno, cioè si continua a lavorare in questa direzione. Ma guardi, come le ripeto, forse perché l'avevamo già come bagaglio nostro, sicuramente noi andremo avanti su questa strada, anche perché comunque effettivamente dal punto di vista dei costi si notano le differenze, nel senso che quando comunque arrivano le bollette effettivamente si vede che questi atteggiamenti, questi comportamenti vengono premiati, per cui sicuramente si proseguirà su questa andatura, ecco. Senta, ci sarà un punto debole, nel senso una cosa su cui veramente si fa fatica nella vostra famiglia ad essere attenti? Perché ogni famiglia, non so, c'è chi non riesce a risparmiare l'acqua, chi invece... Ecco, voi su cosa siete deboli? Magari talvolta sugli acquisti non prettamente legati al risparmio, nel senso, viene più facile comprare, per dire, i detersivi non fusi e quindi poi buttare un sacco comunque di rifiuti inerenti ai contenitori dei liquidi per tirare dei detersivi, quando invece basterebbe magari prendere, che ne so, detersivi alla spina, piuttosto che anche meno imballaggi degli oggetti che si acquistano. aumentano, forse su questo viene più facile comprare cose già di questo tipo, ecco, forse su questo siamo un po' più carenti, ecco. E questa era un'altra voce che arrivava dal nord e che riguardava gli italiani, una media forse l'Italia, ma che ha dato il polso della situazione. Stiamo parlando di 2.500 famiglie che per un anno hanno risparmiato sul fronte energetico e tenuto atteggiamenti virtuosi o comunque più attenti sul fronte dell'energia, del risparmio idrico, dell'utilizzo dell'auto e sulla raccolta differenziata. Secondo quanto è emerso, il 94% si è detto molto attento agli sprechi energetici, il 47% ha ridotto l'uso dell'auto a favore dei mezzi pubblici, il 19 ha detto no all'acqua minerale a favore dell'acqua di rubinetto, il 10 ha realizzato addirittura un sistema per raccogliere l'acqua piovana e riutilizzarla. Quindi questa è la fotografia generale di questa campagna di cui noi appunto vi abbiamo dato nota in questa puntata. Siamo in chiusura e volevo darvi una buona notizia che riguarda il fotovoltaico. Alla fine del 2009 in Italia sono stati installati 40.000 impianti fotovoltaici in più rispetto all'anno precedente. Ciò significa che ci sono 70.000 impianti per una potenza complessiva di 850 megawatt. Il trend di crescita previsto in questo ambito è del 250%, è una cifra, se ci pensate, impressionante, che porterà, i dati e le stime sono del gestore dei servizi elettrici, a 100.000 impianti fotovoltaici installati entro il 2010. E se consideriamo che nel 2006 c'erano solo 1.400 impianti, ci accorgiamo di cosa stia accadendo. Non solo, secondo delle stime fatte da alcuni studi a livello europeo, nel 2010 l'Italia supererà Spagna e Francia nell'utilizzo del fotovoltaico e avrà più del 27% di fotovoltaico d'Europa. E questa è sicuramente una notizia buona con cui chiudiamo questa puntata di Respiro. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che potete riascoltarci andando sulla pagina di Respiro, che si trova ovviamente sul sito della nostra radio, radio24.it. Noi ci risentiamo sabato sempre alle 16.30, domenica alle 14. Se volete potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli.